sempre io, Torino. Ciao signor Cirzolo, cambio, mi schiami, ascoltate? Ascoltiamo anche a te, chi sei Eugenio? Gavino. Ah, Gavino, e c'è così Mazzino. Chi sei Gavino, mi ascolti? Non sono Gavino. E chi sei? Tonino. Sì? Tonino. Ah, ciao Torino, buonasera, mi Eugenio Portatore, qua in camper. Capo Eugenio, ciao, mi hai sentito? Carlo, sei tu, sì? Sì signore, sono io, Tonino. Eia, dalla voce di aver conosciuto il volo, infatti. Riprendi Carlo, sentono Eugenio. Eugenio, lo sento piccolo piccolo, ma sono in macchina e non a casa, sono al semaforo di Viale di Astronauti. Ah, ho capito. Eia. Eugenio, allora Carlo è in macchina di Via degli Astronauti, Sassari Alto, dai, ecco, ti sente piccolo piccolo. Anch'io lo riesco a tirare fuori molto, molto, molto piccolo. Ciao Carlo, se mi ascolti. Ciao Eugenio, già ti ascolto, un passo di radio perché sono con l'antenna anche piccola. Carlo, già ti ho tirato fuori adesso. Già va bene, l'importante è ascoltarci, dai, anch'io il microfono originale da questa parte, capito? Eugenio, adesso ti ho sentito meglio, sono sul Ponte Nuovo, capito, sul viadotto, sto andando verso Pretaglietta. Io qua, guarda, ingresso Viale Umberto, capito? Ora tra un po' lo sorpasso. Va bene, riprendi Tonino, buonasera. Capo, buonasera anche a te. Dato che mi hai preda in Ida, a me si acciappa una preda bianca, burro. Devo comprare una cosa da, come si chiama, da Decathlon. Ho capito, a fianco a Carrefour. Io sono uscito poco fa, ma sono entrato subito, sono andato a buttare la spazzatura. E quindi niente, siccome ho intenzione di farmi un po' di fuochi prataioli, quindi non entro prima a casa. Carlo, copiato, Carlo è sparito oggi. Torino, mi stavi dicendo, c'è un imbecille, non si è fermato, non ha costato l'accelerazione, vabbè, dimmi. Ho rilasciato che a Carlo, ma non mi ha sentito, deve essere. Niente, io ho detto, ero anche fuori poco fa. Sono rientrato prima perché tra un po' voglio cucinarmi un po' di prataiolo, capito? Aglio, prezzemolo e via. Aspetta un attimo, aspetta. Carlo, ci sei? Tu lì ancora mi ascolti? Sempre forte. Addirittura. Tieni conto che ho l'antenna sulla cappotta del camper, in vetrolisina. Ho di quelle antenne che sotto hanno la carica, che non bisogna regolare le trasferite stazionarie. Comunque vai, stai andando 9:10 delle 5. Allora va bene, vai. Va benissimo. Sei in giro nella città oggi. Perché io mi sto ascoltando in mezzo al QRM. Ho detto sei in giro nella città adesso. Ma a me ne mi senti G? Tonino, ci sei? Capo, ti ho chiamato poco fa, non mi hai risposto. Ero impegnato con la guida, capito, e quindi adesso sono fermo al semaforo di via Pascoli. Eugenio, se non ho capito male, è a Sassari in macchina. No, col camper a Sassari. Quindi allora, se sei via Pascoli, mi ascolti bene a me. Sì, a voglia. Nitida, nitida proprio la cosa, la radio. Io sono più o meno, diciamo, in linea d'aria, cosa potrei essere, 2 chilometri. Adesso mi sono spostato e sto scendendo verso, cos'è questa, via Mugino? Sì, senz'altro, un bel pezzo in discesa via Mugino. Sto scendendo lì al semaforo di via Mugino, quello in fondo, che poi incrocia con la Corso Trinità. Sono quasi fermo al semaforo, c'è il tram davanti a me. Mi ascolti sempre bene, sì? Sì, sono davanti a quel negozio di ferramenta, mi hai capito? Bricco, cos'è? Bricco City. Sì, ho capito che sì. Anda bene, ma oggi non è tratto nessuno, stavo solo chiamando Gianni, me l'ho chiamato al telefono, il telefonino non prende. Eugenio, ci sei? Eugenio, dove siete? Magari è acceso. Io radio sempre buono, sì? Sì, qua arrivi bene, fondo scala, radio 5. Adesso sono al semaforo, c'è un traffico, forse perché ci sono due tram, capito? Quindi occupano tutte e due le carreggiate, non si va né avanti né indietro. Capito. quindi anche quella zona già arrivo bene, ho capito, meglio così. Sì, qua sì, a voglia. Da casa mia qua ti ho sentito sempre praticamente, e quando non ti ho risposto ti sentivo sempre bene, ma non potevo perché ero incasinato con la guida, avevo appoggiato il microfono al buio della macchina, non lo vedevo. E vedo che hai un po' di QSMI, scendi un po' di segnale, poi risali, ti riprendi. Beh, giustamente sei in movimento. E tiro poco fa fuori, ripeto, sono andato a buttare la spazzatura e sono entrato poi più a casa, ho detto dovrei cucinarmi dopo, tra una mezz'oretta o anche un'ora, un po' di funghi prattaglioli già fanno in fretta con aglio e prezzemolo. Guarda, io li ho fatti stamattina, avevo preso un po' di cardoncelli freschi freschi, ma belli e piccolini, non erano molto grandi, e li ho fatti così con aglio e prezzemolo per contorno. Sono molto buoni, io non l'ho trovato il cardoncello, ho preso il prattaiolo, ho visto una bella cassetta di 2 kg e me la sono presa, dai, da me me le faccio stasera. È già buono anche il bianco, quello prattaiolo, cioè quello poi con lo champagne è buono lo stesso. I cardoncelli ho fatto scaloppine oggi e con contorno di funghi cardoncelli, e ti posso dire che è bastato quello con la frutta. Sì, a voglia che ci basta, io mi faccio infatti solo i funghi e basta me. E non so neanche, le cucino tutti perché non voglio che si rovinano, e le conservo, le mangerò anche domani, un po' per volta. No, sono buoni, guarda. Mio figlio è che non ne mangia, funghi proprio non li mangia. Infatti a lui gli ho fatto un altro contorno, ho detto guarda c'è formaggio, ci sono mozzarelle, ti fai un altro contorno con la carne e buonanotte. Io già mangio tutto invece. Eh beh, anch'io mangio tutto, io non sono viziato su queste cose. A volte mi è venuta la voglia di mangiare, fammi un bel brodino, mi sono fatto un bel brodino e ho messo quella minestrina, i fiocchetti piccoli piccoli, che mi ricordava quando la faceva la buonanima di mamma, e poi che era buona, un bel po' di formaggio grattugiato, grana padano sopra, oh che bello, insomma ci voleva un po' di brodo, ogni tanto me lo faccio. Sì, anche noi lo facciamo, mia moglie lo fa di pollo, compra le cosce di pollo, poi mette un po' di sedano, carote, nella pentola a pressione, capito? Sì, lo faccio anch'io un bel brodo di pollo lo stesso, sedano, carote, patate, cipolla, e piace un bel brodino, a voglia, con quel brodo poi ci faccio la minestrina, buono, perfetto, e patate, pollo, eccetera, eccetera, e tolgo e metto un tegame a parte. Infatti mia moglie usa la pentola a pressione, quella grande, e se ne avanza lo mette nel pentolino e poi magari in frigo, e quando hai voglia ti fai la minestrina col brodo che è avanzato, ed è una figata, come hai detto tu, con la grana sopra, alla grande, e fa anche bene. Scappa, se fa bene. Eugenio, ci sì, niente, si deve essere sposato. O se no con il minestrone, me lo faccio solo di verdure, e faccio un bel pentolone, solo per 2-3 persone circa. E poi a me piace molto riposato, capito? Quando lo faccio a mezzogiorno mangio anche la sera, se la mazza fuori domani, lo metto in frigo la notte, domani me lo scaldo ed è buonissimo. E quando lo mangio così, diciamo, ci metto un filo di olio d'oliva puro sopra, è un bombò. Lo so, maledizione, come sono iniziati gli sconti qua, devi vedere il traffico che c'è. Cioè, sono a Predanieda praticamente, ho girato dalla piazzetta verso destra, sto andando, passo un attimo a Città Mercato e vedo se c'è una cosa, e poi torno indietro, vado da Decathlon, mi faccio un giretto lì da Carrefour e poi me ne rientro a casa, penso per le 7:30 dovrei essere a casa. Niente, qua già mi arrivi sempre bene, però c'è un traffico micidiale qua. Me lo posso immaginare, perché sono già le 6:25, è ora di punta, quindi molte persone escono a comprarsi qualcosa. Comunque, in tutto transito, mi è sento bene sempre, Carlo. Sempre, non ti perdo niente, Tony, da quando sono partito che ero a casa, io ti sentivo, poi ti ho risposto quando ero lì al semaforo in via degli astronauti, fin qua io ti sento sempre ottimamente. Sono liscio, 5 watt in uscita, microfono normale, con 23 canali, andare. Ascolta, invece dammi un riscontro, come ti sto arrivando io di segnale di radio? Tu sei 9-10, radio 5 perfetta. Io c'ho un piccolo aiuto in macchina, perché se no non ti sarei arrivato con 9 qualcosa, capito? Sto uscendo con una quarantina. Già va bene, voglia, cavolo. Infatti un po' ti ammassavi il segnale e poi ti riprendevi. No, io sempre meno di radio è perfetto, sempre 5, oh Carlo. Sì, ma già va bene, qua per la città adesso va molto meglio, perché avanti ieri ho avuto la possibilità di parlare con Gianni da Piazza Lezzini, tornando a casa, e mi hanno dato il riscontro che prima mi sentivano 7, invece adesso arrivo anche 9, quindi già va bene. Da Piazza Lezzini si vede anche l'antenna tua? Sì, esatto, sì, io lì già è una zona alta, capito, per cui adesso niente, sempre qua tra Danieda, dove c'è il rifornitore della Esso, a passo di Lumaca, capito, è tutto bloccato il traffico. E infatti io là non ci passo mai, perché c'è sempre casino di traffico, camminano piano piano là. Ma guarda, i giorni scorsi ci sono venuto di sera verso quest'ora, ero con mia moglie a fare un giro, non c'era nessuno, capito? E che da oggi sono iniziati gli sconti e la gente insomma esce a fare le compere. Certo, macello, io evito sempre passare qua, più o meno a questa ora in quella zona, oppure verso mezz'ora e mezza, che è un casino. No, evito sempre, faccio altri giri, però non passare lì, per carità. Saranno, c'è un interattore sul vedere se c'è Natalino all'ascolto. Natalino, a quanto pare non c'è neanche Natalino, vabbè. E poi d'altro canto, tu con Gianni ti senti forte, da casa tua senti un tiro schioppo, dai. E da casa tua mi senti bene a me, sì? A voglia, la casa lo stesso. Anche se tu sei in una zona, diciamo, più in basso rispetto alla città dove vivo io, la zona più alta, diciamo. Però già sei aperto, quindi a voglia che ci arrivi, Sassari e oltre andrai. No, io rispetto a via Giovanni Pascoli sono più in alto, perché sono in collina proprio. Però rispetto a Sassari alto sono in basso, giustamente. Infatti ho detto, sarà una zona poco aperta, invece a quanto pare vedo che insomma già va bene lo stesso. Va benissimo, Tony, va benissimo. Io lo stesso, adesso ho trovato questo piccolo affarino che mi porta un po' sui vate, va meglio così, non sono troppi, ma già va bene. Anda bene. Niente, la mia vicina poco fa mi ha proposto di trasferirmi dove abitavo prima, da lì a fianco alla sua villa, però da una parte sì è bello, però non mi conviene, sono 100 euro in più al mese, capito? E con quella cifra trovo già Monte Bianchino con 450 euro. Ho capito. Vedi, quello devi vedere tu come la situazione, la comodità soprattutto, capito? Quello lo devi valutare tu, lo sai solo tu. Sì, ma già che è un po' domani di partenza, però i cani non li voglio, io ho due cuccioli, no? Io ho 3 anni, Carlo, e avevo 2 mesi quando ce l'avevano, sono affezionato a loro, lo sono affezionato a me, io non li do via i cani, mi dispiace neanche a parlarne. Lei i cani non le vuole perché è tutto un giardino, non vuole che i cani in giro, capito? Anche lì c'ha ragione, però lei, io la capisco, se mi capisci, non dimmi niente, basta. Mi dici di darli via oppure basta, non ne parlare neanche. Ho capito, del resto i cani quando ti sei affezionato è difficile, insomma, così, cosa fai? Li regali, li porti al canile, no, non esiste. Se li tieni vuol dire che te ne stai dove sei allora, Tony. Dove sono? Cioè, l'altra casa è 100.000 volte meglio, qua però c'è un fattore, c'è un giardino grande, io ho fatto abbassamento in cemento, ho comprato una casetta in quelle verdi belle con le porte scorrevoli, ce l'ho messa sopra, ci sta di Roma mia, cosa che questa qua, io se vado a mettere là, che sarebbero neanche 50 metri di distanza dove sono adesso, sempre qua in campagna, sempre la stessa padrona. No, quella casetta per esempio non dovrei, potrei piazzarla, perché il giardino è molto più piccolo e non va bene, non la vuole. Cioè, sono tante cose inconvenienti che a me non mi va bene, rimango dove sono. Ho capito, allora ti conviene rimanere dove sei, dai, cani sono troppo belli come animali, ti ricambiano l'affetto, tutto quanto, e quindi no, non va bene. Fai bene a rimanere dove sei allora, Tony. Sì, sì. Allora, uno è marroncino, cioè è assomiglia, è un incrocio con Jack Russell, è uguale nitico, se lo vedi. E talmente vispo, e quello è attaccato molto a me. Poi c'è un altro che incrocio un bassotto, rimane lungo, me lo penso a tuccio, però sempre taglia piccola, ma quanto tutti e due mi vogliono bene, poi sono gelosi, quando viene in grembo uno vuole venire anche l'altro, poi si giocano, fanno un casino, guarda, no, a me mi tengono compagnia, dai. Lo credo, sì, sì, va bene. Tony, ho trovato un parcheggio, adesso scendo un attimo, nel caso ci sentiamo dopo, già ti faccio chiamata se ci sei, non dovrei impiegarci tanto, dovrei stare qua, città mercato, un 10 minuti, un quarto d'ora e poi mi sposto e eventualmente ti faccio chiamata. Tranquillo Carlo, io sono qua, io sono in pensione, mi faccio valuta, tranquillo, fai tutto quello che devi fare con calma, poi quando mi chiami già ti rispondo, già sono il baracchino acceso, ok? Ok, a dopo, ciao Tonino. Ok, ciao Carlo, ciao, a dopo. Attenzione 10, cambio. Binario 10, scendete che il treno è già arrivato. Attenzione Protulella. Alcuridi, alcuridi. Gli baci sono pronti con la crema, forza. Ma Natalino, luta. Circolazione andiamo. E non sai cosa ho fatto per non sbagliare, mi sono segnato il numero. Oh, e io ce l'ho già registrato. Mi sa che non c'è mica me, entri, Protulella. Ma fa nome. E quando mi serve così la chiamo e mi faccio ordinare 5-6 cannoncini, poi ho 4 ciabatte e 4 frittelle. Mi ti fa male, siamo di massimo. No, per tutti. Capito. Comunque non sono molto grande come passi, io me l'aspettavo più grande ancora, quello che dico io, per l'università, l'ubici, quello era un doppio di che vedeva a me, è enorme. Eia, ma tu non hai visto i cannoncini? Non hai visto, no, non c'era neanche frittelle. Sì che c'era, non me l'ho presa io. Ma non era così grande, grande, no? Sarà che la tabbia di crema, chi si piazza a te? No, le frittelle sono normali, i cannoncini fa grande. Il capretto, andava. Lui è tra poco rientra a Carlo, dai, che è andato a fare un po' di compere. Io dopo mi faccio il pratagliolos. Niente, lunedì comunque mattina viene coso, la cicomina mia, dai. Quella si è offesa comunque. Telefono, aspetta. Roba veloce, là. Che cosa? Roba veloce. Ah, proprio turbo, No, era mio nipote, dai, per dirmi che veniva domani, a pranzo. Ho detto, niente, dopo mi faccio quei prataioli, ho già, agli prezzemoli e via. Eia, qua non ne posso più fare i funghi perché era detto che non li piacciono più. Ma scusa, non li piacciono lì, ma se ne fai per te, così devi evitare di mangiare la roba che non piace lì. La rimane alla giura, se ne prendo ne prendo un pacco già, per me è troppo. Io ho preso un pacco da 2 kg, una cassetta. Quanto sei mangiore? No, che me ne posso mangiare anche domani, capito? Se no chiedo, cosa Monica si è offesa a me? Perché? Stamattina mi ha chiamato, dice allora scendi la macchina ormai da luna, ha detto no, io a luna non posso mai scenderla. Se vuoi che la scendo più stasera più tardi, ma io devo fare un po' di cose. Guarda, sono ancora a casa, mi devo preparare, devo uscire, comprare il pollo per i cani. E poi cosa devo comprarmi? Altre cose, farmacia, eccetera, e vabbè, ho capito, vabbè, pazienza, mi ha usato il telefono, non mi ha più chiamato. Allora, vaffanculo. Vabbè. Caramai la sera si sa, è un film che ho visto 50 volte. No, se stasera le 8, lì alle 8 e mezzo 9 non viene, come è finito, ha chiuso? No, a parte scherzi no, perché se lunedì viene Ica e non c'è problema. Ah, se dice che viene lunedì? Quindi se lunedì viene Ica, no. Me l'ha promesso, ha detto non ti preoccupare, guarda. Ho detto mi sono vieni perché negozio da te, ti prendo per i capitemi. Ma no, già vengo, vabbè. Ci vediamo al solito posto alle 7 e mezzo, va bene. Oia, oia. Oia, oia, mamma mia. Oia, ma insomma questo dolore non ti passa più a te, cara. E cosa vuoi dire? Sto provando a non prendere più antidolorifici perché ne ho preso troppi, boh. E poi guarda che fa male al fegato, anche se mi dà protezione, c'è cioè medicina già, e cerco di evitare di mettere questa roba qua. Ma io non prendo solo la protezione, io mangio anche quando lo prendo, di modo che lo stomaco è pieno. Chiaro, so che tu dici a me, ma che tu sei mangione. No, ma io mangio roba che... per dire, mangio una mozzarella e poi se non mangio altro a cena, capito? Io stasera, guarda, mi sono appoggiato a letto alle 2, poi verso le 3 o 4 mi sono alzato, mi sono mangiato un gelato pinguino, poi mi sono ricoricato. Ui, prova a ridare. C'ha televisata, va la scorta. Poi stavolta mangio un cornetto, ciccia. E sono due gelate alla vita. Se mangio solo funghi, non mangio pasta, non mangio niente, già. Quindi posso ammortizzare con il cornetto. No, il cornetto fa male, perché è dolce. Tu puoi anche non mangiare un secondo, però il cornetto non sostituisce il secondo che tu non mangi. Lo passa di 3 volte, capito? Infatti, chi su fate male, perché il dolce invece la frittella da brutturella invece non si fate male, no? Infatti io non ne ho mangiate, già l'hai vista, ne ho preso una per Elena. Elena me ne ha dato un pezzo perché ha detto che una non ce la faceva mangiarsi, non ho mangiato la metà, dico la verità. E quando ci sono io, e poi quando te ne mangi la cua, Gianni, quando mi dici 2-2-2, più o meno ho già capito. Sì, se ci sono due per tipo di quelle ne prendo, perché sono buone. Ma sono dolci, non le puoi mangiare. Ma infatti, le do agli altri. Io le prendo per gli altri, io mi diverto a vedere gli altri mangiando. Ecco, bravo, tu quando le compri, dimmelo a me. E adesso domenica mi sa che le ordino la mattina presto, ma le faccio lasciare a parte, vado e me le prendo pure. No, io non ci telefono, io vado direttamente presto, mi invito e me ne mangio chibi. E non agacci, perché ci vanno quelli che ne prendono 24-48, ci sono i bar e cose che vanno, se ne prendono e se ne vanno. Addirittura, è la grande, le sei manzano? Presto vanno, i bar fanno le colazioni, quindi vanno e se ne prendono, capito? Ci sono quelli che ne prendono 24-30, Ma io ne ho ancora 7-8 surgelate di frizzere, pozzetto. Quelle mettono nel forno, di vetro gigante, sono condite alla marmellata, quelle che sono vecchie e buone. Anzi, mi servono con uno stasera e uno domani. E il fallo si fa alla faccia di rudiamente. Mia, dottor Minis, che è entrato. E qua. Stavo ascoltando, lì che ci ha pizzicato al volo. Al volo proprio perché ho appena acceso. Ero curicato fino a poco fa. Natali, sentito tutto quello che ha detto. Si ha mangiato due gelati, da voi si ha voluto rigrossare la marmellata di chi si muore nel freezer e poi per bloccare la lievitazione poi si mettono nel fornetto a scaldare. E non inventare, ho detto uno stanotte e uno domani, cosa due qua, due là. Un gelato di notte, un cremino che ci ho mangiato, ho detto stanotte mangiare un cornetto. E tu hai detto, due, domenica le prenotto e me ne mangio. No, io ho detto domenica le prenoto perché c'ho gente. C'è gente, ma che l'offio, Natalia, e te. Intanto sapevo già il numero di telefono di Protollella, che quando si è mandato mi ha detto, scusa, ma come mai non vede con te? E no, la mattina ha preso il numero così, dice, allora gliele prenoto. Gli hanno dato il suicidio, due guadagni a quadretti, più Gianni. È meglio che Natalia sia più peccato di me, non solo me, ma anche di Gianni, che Gianni sono più peccaminosi. Buonanotte, dicevo che sei cornetti, ma anni long e pieni di greva. A me è detto che è peccaminoso, che su Gianni. Se ti piace poco il cornetto con la cremuzza. Ecco. Non mi piacciono, a me lo faccio apposta a dirlo, ma non mi piacciono. Già per i mani di voi, rimasti, a me mi piace a Baidà come ti lascia lì. Sì, mi piace a Baidà. E infatti, quando siamo andati via lì, che c'era anche Natalino, poi siamo arretrati, siamo passati a Protollella e te ne hai pigliata la bacia e te ne hai mangiata. Natalino ci ha mangiato la frittella a me. Non ti pensavo che il Sadino non ha mangiato la barba, ma sono andata a Protollella. Sì, ma che su Gianni è una scena, non li posso fare né caccia né lana. Non è vero, Natalino, l'ho presa per Elena, l'ho portata a casa e mi ha detto, non ce la facciamo, ci ha detto, te la vuoi metà? Io, no, mangiate la metà che non ti fa nulla, e me l'ha dato metà. Poi ho misurato la glicemia e ce l'aveva 69, quindi era buonissima. buonissimo. Chi vedi da mangiare ancora di più? Per questo non vedi chi va a c'è mia pasta, ma è tutta gli viene la gana di mangiarla. Io non c'ho 114 di me. Con strappa la regola, un cremino me l'ha mangiato. Ecco, ho la scorta andata lì, il freezer. Quindi, 30 gelati ha giubilato. Se ogni tipo avvenne a voglia, ah, mi scotta con l'ha già mangiato. Vabbè, quel cucciolone già l'ho mangiato l'altro momento. E aspetta, se avrà arrivato a Natalina, aiutate se non ce la fai. No, io la verità non mangio più. Inizio già mi ribiglio. Ma io anche d'estate, d'inverno ce le mangio lo stesso, la talicia c'è buone. Io d'estate prendo quelle cose da chilo, dai. Alla crema cioccolato, oppure vaniglia e cioccolato. E vabbè, e li posso l'avviso. A te, i pacchi da chilo si miglia. Io il cremino che peserà 20-30 grammi, lo di mio chiccio da chilo, non li mattano uno minore. Avanti la talicia. La vaschetta si miglia direttamente, fasi prima. Oh già, la prossima cammina di la macinella mi ce l'ha. Ah, io venivo la vaschetta, me ne mangio appena appena, poi te la pongo in freezer e lascio. Sì, sì, infatti lascio. A me mi hai confessato, quando è a casa tua, e mi hai detto, guarda, io purtroppo quando compro i gelati, me ne mangio tutti. Quello sì, sono ingordo. Ma non le puoi mangiare. Gianni è peccaminoso, è peccaminoso questo Gianni, è una cosa che non si crede. No, ma io la verità, i gelati, in estate sì che me lo prendo qualche scatola di cremini, capito? Quelli lì mi piacciono a me. Delfino Goloso. Ecco Carlos. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, buonasera. A Natalino stavo dicendo io, Delfino Goloso. No, io non sono goloso, la verità. Qualcuno mi in estate già me lo mangio di cremino. Quelli mi piacciono, ma non è che ne vado a pazzo. No, Natalino non è goloso, si ne affutta. Basta che non sia, a chi so documento è te. Carlo, dove sei? Sono alla rotatoria e mi sa che faccio una puntata, me ne sono fuggito da Città Mercato. Sto facendo una puntata alla piazzetta, poi Carrefour e poi me ne rientro. Cosa il giro dei supermercati se facendo? Eia, devo passare pure da Decathlon per prendere una felpa a mio figlio. Ah, capo. Andavè. Oggi tournée. E oggi tournée. Domani mattina a Manzano alle 4:30. Oh, yeah. Non ti invidio. Vabbè. Come va la gamba? Ancora dolori c'hai già? Sempre dolori, sempre dolori. Ho fatto uno sforzo e mi ha fregato, dai. Adesso cerco di riguardarmi un po'. Piano piano e ci vorrà tempo. Speriamo, comunque ci sono più lievi, dai, sono un po' più lievi di ieri, era proprio fortissimo. Anche per entrare qua la piazzetta è un casino. Cosa c'è, molta gente? Perché oggi sono iniziati gli sconti, no? E quindi c'è un sacco di gente, neanche a Natale così, cavolo. Ah, gli sconti ci sono per quello, e allora? Allora, paghi su e tutti sono in giro. Salutami a Paolino. E chi è Paolino? Quello che fa i polli all'entrata. Re del pollo. Ah, ho capito. Adesso mi parcheggio fuori, qua ho trovato un buco e mi parcheggio. Ma quello vende i polli d'oro, 14,50 pollo arrosto, che non è anche lui che ci quero. È particolare, sono fatti con la legna quei polli, capito? Col forno a legna. Gianni, è sempre pollo arrosto, o a legno, o elettrico, come di voi, è sempre pollo arrosto. Io sono già con il Paolino perché quando non potevo camminare me l'ha preso Vittorio, l'ha preso da Paolino, e dirò che non è che tutto questo granché di questo pollo. Quando lo piglio io all'Erospi, che è 4,95-4,99, quello che è, insomma, è così buono e esaurito. A me i polli fatti così allo spedito non piacciono perché sono secchi e salati. No, io la pelle la tolgo tutta quanta e non è salata, la pelle è salata, ricordatelo. Ah, rimangono asciutti. No, preferisco come lo faccio io in forno. Vabbè. Io non ho il sapente di fare forno. Avanti, Natali. Oia. Oggi pure io ho fatto compere lo stesso, se lo sapevo me lo mettevo in macchina al baracchino, ma stamattina sicuramente non c'era nessuno. E di mattina non c'è quasi mai nessuno, Natalia. Non me l'ho più messo in macchina al baracchino. Varie volte quando Gianni va a piazzare il segno si mette il baracchino, perché sennò non è ogni giorno che si va. Esatto, lì sono passato mezz'ora, già vedi, non ha riposo nessuno. Sto scendendo, ci sentiamo dopo. Ehi. E chi era quel fischio? Ha detto sta scendendo Carlo. Va bene, siamo qua. Figliola. Oia. Vabbè. Bisogna che ci organizziamo la fissata. Ehi, non solo quella. La domenica mattina ci trovavamo tutti a Piazza dei Segni, te lo ricordi già? Con le antenne, in macchina, via. Bisogna che facciamo così. Sì, è l'estate, andavamo a giocare a pallone, piazzare i segni, tutti i cartini civili, ci trovavamo tutti con le antenne, con le macchine, con le antenne, si voleva giocare. E abbiamo mangiato anche formaggio, che l'avevo portato io, quello con i verbi, te lo ricordo, il vino. Ah no. Si può sempre rifare. Ehi, la domenica ci troviamo lì, ci prendiamo il caffè, tutti in greffa, bisognava così, cazzo, non si va più nulla, i murendi c'è frequenza. Così bisognava. Oh, si aggrega, anche Carlo se vuole venire. Ehi, Carlo già si aggrega, non c'è problema, sei libero dal lavoro perché lui purtroppo fa i turni, capito? Quando è libero già verrà anche lui. Anche a te già, ti fa bene anche la gamba almeno. Speriamo che mi passi questa sta cosa, mi sta già preoccupando. Nori, ma è un po' di tempo già, neanche io per la gamba, oggi trova, io che ho trovato bene il stanca, ormai sto prendendo le speranze, sono scittico, invece vedi piano piano adesso sto meglio, cammino bene pure, cavolo, ma prima io sono chiuso quasi 5 mesi che non si mingia, quella fisioterapia mi ha fatto bene di bene, io ho fatto la dottoressa, sono scittico, ma il cammino di terapia non mi ha tenuto invece, mi. Ma io per l'ambulazione vado bene, sta andando bene, ma non è quello, il problema è che c'ho il dolore, capito? Camminare cammino, già lo sai. Sì, vabbè, ma che io poi i dolori ce l'avevo quando come camminavo. A me è passato, dicevo, molte infratture al maleolo, quindi, che era un casino. Vabbè, dai, già si passerà già, non rimarrai sempre così, no. E d'altronde... A domani fai un mese che si è operato, non è mia casa da un bimbi. Infatti, poi adesso ha fatto questo sforzo, deve stare attento anche lui. Adesso questi dolori non li avrebbe avuti lui. Vedrai che già li passa. Domani togliamo le case più piccate lunghe. Domani la festa della torta. Domani si tolgono le case, non c'è manco una sacca cosa mi raggavo da me. Sai che non mi dici che hai fatto una calza Elena? Calze a titrombo. Ah, ho capito, sai che siccome la per fare domani. Io quelli lì me li ho fatto il giorno stesso che sono arrivato a casa. Subito. Uia Gianni, ma pure tu lì si è sparato con la carta, però mi ha dato la carta, ma ha piccato la calzetta, ha piccato Riccio. Non vedo l'ora di liberarmene, magari anche quello che stringendo mi fa male. Sarà che quello me. Ma prima mi stavo appastando, sono stato 2 giorni che non avevo dolori, capito? 2 giorni che non avevo dolori. Già ti basta già, che adesso è come hai fatto quello sforzo. Se invece lui chiamava me, sforzo l'evasia. Già lo so. Già lo so. Ma lo potevo chiamare a te alle 11 di notte, chissà dove dormire. Qualche cosa dovevo fare, no? Cosa la lasciamo a dormire in terra? Gianni, allora io alle 11 di notte non è, diciamo, tardi per me. Non c'è problema. 10-15 minuti ho dato. Oia. Vabbè. Quando c'ho tempo devo comprare quell'affare della serrata che si è presa a Rada Rugiu, questa cameretta, e bisogna che le raccambi. Tu la scala la ce l'hai, sì. Cosa? La scala la ce l'hai. Sì. Ok, dai. Io quelle che ho io sono corte, non ti farò bene, te tu cosa? cos'è? La porta mala, porta finestra oppure solo la finestra? Porta finestra, Più lunga è quello che ho io. Io lo so, se no già ce la frega anche io quella corta. Ma non è quello il problema è se farla da di goifo, capito? Vabbè, non dici quando la prendi, dai, e te la piazzo già un attimino. E il tirante, quello lì, si sarà sganciato e fa chiuso e farà da di goifo. Non si sarà rotto una palmetta, ma niente di strano, mica, sta lì. Cosa, Tony? Si sarà rotto una palmetta, succede. Succede sì. Sganciato, qualcosa si è sganciato, si deve fare da così. La palmetta, cos'è questa palmetta? La palmetta sono le strisce delle cose in plastica. Perché dove va il tirante che va infilato, quella fare là è filo fino, a volte si spacca e ti va in golpe la tapparella. Già si chiamano palmette. Vabbè, io non me ne intendo, non ho mai aggiustato queste cose, non lo so. Chiamavo sempre uno di Porto Torres, infatti nel numero c'avevo scritto Serrande, veniva me l'aggiustava. Un tipo di Porto Torres che è senza lavoro, poi non l'ho più sentito Giuseppe. Io nella scuola già quando mi è aggiustato così. E quello proprio complicato che poi per me non è facile, qua c'era la polizia praticamente sopra, sotto non c'era niente. C'era le cose solo la cica che scendeva, faceva il giro in giro e tu ne saliva su. E tutto il meccanismo era sotto sopra, dentro il cassone. Quindi ce l'aveva a posto maggiore, ce l'aveva le serrande là. Invece le altre, quello che c'è tu normale, quella la molla, era fesseria. Ce l'ho chiusa roba di un mese e mezzo, due mesi, quella serrata lì, perché dovevo chiedere a Marco se mi aiutava almeno a alzarla per entrare la luce, invece poi una cosa tira l'altra, feste, festini, questo, quell'altro, gente, e allora non ho fatto nulla. Dai, domani posso la scappata della corsa, va. No, le devo comprare prima la cosa, devo comprare... come si gracchigna. Aspetta, ma la cinghia è buona o messa male sotto? Allora, la cinghia è quella che tu avevi cambiato ed era ancora più corta, se te lo ricordi. E rimaneva a mezzo aperta. Esatto. Allora conviene cambiare la cinghia direttamente, una volta che la fai direttamente. Perché se era un'altra cinghia, praticamente di un'altra finestra, che insomma era buona, si guardava soltanto se si era rotto, dove c'erano i tirati e basta. Tanto male come una volta che si apre si fa tutto, buonanotte. E devo comprare via Bogino, da Bricco via Bogino, l'ho comprata l'altra volta. E per porta a finestra, non mi ricordo quanto era lunga. Sono appena più larghe quelle che c'erano via Bogino. No, ma la tua cos'è, stretta o larga? Stretta ma piatta. Sono tutte piatte già. Ascolta, col metro, basta, me la misuri quanto è, se 2 centimetri, 1 centimetro e mezzo, o a te? Praticamente non è come dici tu, perché quella di Liliana, per dire, è rotonda, è una corda rotonda. E allora lì c'è il microlift, Gianni. Ma non so cos'è, la micro c'è, però è rotonda, è di quelle antiche, di quelle rotonde. È una cordicina bianca che tu uccide sempre per il giro tondo, sale su, c'è il microlift e ritorna, sale e scende. È una corda grossa, non è piccolina, è una corda bella grossa. Boh, bisogna vederla. Ma ce l'ha la molla sotto? E adesso non ricordo, comunque è così, c'è una bella corda, dai, come quella dei tiranti, dai, anche più, un po' più grossa. Dai, domani guardiamo, dai. Ma come spessore la cinghia io che è la più corta, quelli va bene, sì. Vabbè, mi prendo la misura che ce l'ho io con le cinghie qua. Prendo la misura e te la prendo direttamente, salgo su e te la caccio. E bisogna andare a comprarla prima, Tony. Andiamo, la prendiamo da Bricco. E ti ho detto che vado, la prendo, salgo sulla teta, la cambio. E vabbè. Ehi, dai. A stare a disturbarti così. Guarda, per carità. Sapessi con la pensione che sono, non so mai cosa fare, Manzano. Per porta finestra le devi dire. Per Bricco, quello di... Se via Bugino ce l'ha. E lui è stato Antonio mio, che pure se telefono a Mario Spada a me, la dà lui l'indirizzamento. A chi? Oh, uno operaio che sta ancora lavorando con dove lavoravo io. C'è il pulmino pieno. Lui fa proprio quel lavoro qua. Noi eravamo tante squadre, ogni tanto. Ah, tu ce l'hai un interruttore, pronti? Oh, ma a me mi diceva fuori di cinghia, e cos'è? Porta finestra, finestra, finestra, pronti? Porta finestra! Non l'ho mai capito. E lui mi domandava cos'era, porta finestra, finestra, io gli chiedevo un po' di cinghia, e se lo dicevo e lui me la dava, capito? Noi ci ritenevamo così tra colleghi già. Se la sassa a me non mi costa niente. Avanti, in realtà lì, tu, con di cera dicevi? No, cioè io c'ho la cordicella, ce l'ho in un certo posto, perché non riesco a trovare, se una cosa, allora gli ho attaccato una cordicella per trovarla. Tira un secondo ora che ho la soluzione. Come ti dice a padre Francesco? Sì. Alla verde lo diceva, si aveva attaccato una cordicella e un sinuso. Tira sto cordone che avrai la soluzione. E a Falcone lo diceva pure, trombone. Non sta ridendo, c'era poco simpatico padre Francesco. Qua vicino abita padre Francesco, lo vedo sempre. Cosa ti volevo dire? Lo diceva la buon'anima di coso, di Ala Verde, che dice che ci aveva attaccato una cordicella perché non la trovava più, se no. E tirava la cordicella, vai tu. Vabbè, comunque la vecchiaia gatta di Garonia, se sia a questo livello. E io pure purtroppo, gatta, mi ho dovuto attaccare la cordicella. Ma non lo devi dire, non so cosa che si dicono. È perché è la verità, non c'è nulla a fare. C'è anche Cermesa, c'è come Canica, veni giù per aiutarti. Sì, mi dici. A me mi basta una bionda di 18 anni, non ce n'è bisogno di cordicella. Occhio ad Arendo, che ti devono la matta adesso di Concetta. Non c'è, sono libero cittadino. Stasera se n'è andata al cinema, se n'è andata lì. E io sono libero cittadino, è per quello che l'ho detto. Ah, ecco perché ci sta aprendo, hai capito già. E cosa c'era, la Befana? E dove? Al cinema. Dove c'era la Befana già? Ho detto il titolo del film, cos'era? La Befana? No, un film, normalmente un film di chi si vede in 3D, una specie di documentario, è da Gerusa, è andata con Giorgio e con Cristina, è andata a vedersi questo film. Tanti cinema sono rimasti abiti a Sassari. C'è il Modena che sono 4 cinema, si chiama il coso, non mi ricordo più che l'altro di Modena, dice l'altra volta. E poi cos'è rimasto? Se la Modena per le 4 colonne sta ancora funzionando, non lo so. Anche là ci sono tutti serrati. Non lo so dove sono andati, la verità. Io non ci sono andato. Hanno invitato ad andare in Tibia, è andata. Fra un po' così ne andata in continenti, non mi pare vero. Allora sei più libero. Cazzo, e te credo. Perché questi due dottori si sposano, no? E va al matrimonio lì. Capito. Gianni. Eia. Così è, sono uno o due cio sono rimasto a Sassari. Perché l'Ariston è serrato, non me. L'altra sempre aggiustando poi. Poi con tutto questo coso internet, eccetera, praticamente di Cina sono fallenti. E l'ex è chiuso, la grande è chiuso, l'altra è chiusa, e cosa bene, 4 colonne mi pare. È il moderno, è buono. Il 4 colonne è chiuso. C'è solo il multisala del moderno, basta. Il multisala c'è. Il multisala è il moderno, mi già. Io vi ho detto, il multisala del moderno. Non ce n'è altro. Tutti chiusi sono, hanno chiuso l'Ariston, cazzo, che era un cinema rinnovato a Sassari, l'ha risarrato. Tutto sarrato, e hanno fallito. Perché? Perché stanno le prime visioni in televisione, quindi cosa vado a fare un giro? Prima si andava perché tutti questi film non li davano subito, capito? Prima li davano al cinema e poi dopo tanto tempo li davano alla televisione, adesso sono tutti i canti prima visione, poi la televisione, quindi cosa vanno a fare al cinema? Infatti. Avanti Natali, che mi sposto un attimino al Puttiacchino. Sicuramente sono andati al multisala. Io mi sono spostato che sono andato al forno a microonde perché mi devo fare pure da mangiare adesso. Ti so garasura che non mi va di vino. Ah, allora torni stanotte. Allora che torna tardi, perché finisce tardi il film e quindi io mi arrangio da me. E appunto, via. Ma io ogni sera dalle 8 sono libero. E poi non lo so perché sono Giuseppe Drumito Natali. Come ho misurato la glicemia c'è bara, la pressione ce l'avevo, quella alta ce l'avevano fatta. Anzi troppo bassa era quella lì. 90, poi la minima ce l'avevo, mi pare, a 75. Avevo i battiti di più verso 92-93 di battiti cardiaci. Vedi Natali, sì, però sera libero. Non ho capito, no, non sono tre sere, stasera è andata a vedersi questo film con quei due vicini. E ho detto, quindi sei tutta la sera libero dalle 8 in poi, giusto? No, torna verso le 8 e mezzo lì. Ma se devi ci esci io, me non hai compreso. Se no, ci mangiamo tornare a fare me. No, lo sto mangiando adesso, mi. L'ho mangiata ieri, la fare. Ma chi è Gianni? L'ho preso da Antonio. L'ho prenotata, chiamata al telefono, sono andata alle 8 preciso con Gianni e l'ho ritirata. Gianni però un po' mi ha deluso, non è bella solida come quella che prendo io. È tutta carta sfatta, boh. Era troppo calda. No, anche a me me la portano calda, non è quello il coso. È stata sbagliata qualche cosa. A me me la portano calda, e volete quella che portano a me? Natali. Boh, è strano, perché Antonio la faceva un bel buono. Natali andava a prendere, si faceva pezzaliti. No, non era a fette. Vedi, c'era anche Tonino. Si sfaldava. Boh, è strano. Perché Antonio la faceva benissimo. Ma, cioè, non c'è mai niente, Natali. Eia. Ma non sei venuta. E cosa fai? Se so come niente, se lo dicevi prima magari, ma adesso cosa? Fai il duplicato. Dai Natali, fine che ti manda la toracia, ma così ci organizziamo. Dai, poverina, là. Poverina, e mica sai, stiamo andando al cinema, guarda, a vedere un bel film. Boh. E noi ci guardiamo un film di Mangiuchiera. Ma tu ti vuoi mandare, ma se vai al cinema va. No, se mai si evita che concetta, dai, io. Ma. No, ma lei non me l'ha detto già, se mangiate fagnì io voglio la pizza. No, non le mangio di fagnì. No, non li incascia, boh. Li mangio una vetta, due vetti, da voi non li mangia più. Natali, ieri ho preso la teglia media, solo 10 anni ci abbiamo mangiato, si scende tutta. Ma è un bemmi. Ah no, se prendi la teglia media da quello di Via Nurra non ve la vai a magnazia. No, quella di Antonio è tutta quanta l'abbiamo mangiata. Oh, ieri sera l'ho mangiata io. Anche noi, quella con le cipolle, che buona. Io ne ho preso una teglia piccola, metà normale, metà con la salsiccia, ieri sera da Sassu alle 9, perché c'era un concerto alla chiesa di Santa Caterina con mia moglie, e poi salendo a piedi lì con la macchina in Viale Umberto, ho detto, mi sa che prendiamo la Fainé. Oh, era non buona, buonissima, non è rimasta neanche un pezzo. Lo so, quando è buona è così. Anche io dove la prendo? Io la prendo da Carlo Pira in Via Nurra ed è molto buona, è bella compatta e tutto. Ma non era cattiva, solo che si sfaldava. La Fainé comunque è sempre buona, dai, la Sassari già la fanno quasi tutti buona. A me piace col pane. Anche a me. Io ce le metto sia 7 fette, 8 fette, posso gli ammanino che me ne mangio pane e cioccolate, c'è buono. Già è pesante la Fainé, vuol rubare Simone, buono. Ciao con la Monica. E ci siete, ci sentiamo più tardi. Ehi a Carlo, siamo qua, dai, sino alle 8 ci siamo. D'accordo Carlo. Ciao, a dopo. Ciao, ciao Carlo, ci sentiamo. Ciao Carlo. Ciao Carlo, ci sentiamo dopo, dai. E insomma, cosa tutto stai mangiando, Natali? Sì, c'ho pollo, di quei bastoncini di pesce. Bastoncini fittos? Eia. Io ho una voglia matta di mangiarmi un po' di pollo in agliata, come la fanno Alghero. Ma ah. No, così non l'ho mai mangiato, la verità. Io quando ero ricoverato a sudare per il cuore, c'era questo algherese, ha chiamato la moglie, ha bucato questa bella ciotola di polpo inagliata, ma così buona, e finza rubana, immagino passato, la scarpetta giocato. Ma pollo o polpo? O pollo? Ma pollo o polpo? Polpo, polpo. Ah, io devo vedere il pollo e devo vedere il polpo, non ho compreso cosa hai di zenni, inagliata. Ho detto, io ne ho una voglia di mangiare polpo inagliata. Mi è venuta una voglia, guarda, e purtroppo non l'ho saputo fare. Io lo mangiavo in insalata, però facevo così, ma in agliata, col sugo come farò loro, è micidiale. No, così non l'ho mai mangiato, a insalata io me lo faccio, aglio prezzemolo e rubo in salata, lo boico, pure a me mi piace così. Io se sono con la riesa a mangiare un polpo con le patate e salata, ma io ci metto anche le cipolline, lo faccio bello amproso, ed è un bel buono così e salata. Più che con le patate lo mangio così, con le cipolline di quelle sotto aceto, li metto a pezzettini, dovrei tagliare in due, dai. E dopo lo condisco, lo metto in frigorifero, lo faccio saporire bene e poi li do con la passata. Mi pare che mi sei di prendere vinicana, cata.